per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Oggi venerdì 4 ottobre, non più estate, ma la nostra forma dell'acqua rimane speciale. Tra suoni, stili e visioni è tornata la vostra coppia di lunghi e fare in modo che il venerdì abbia sempre un che di magico. Non ci siamo dimenticati di voi, ai microfoni ci sono William Piana e Elisa Iacobucci, che vi dà il buongiorno e vi accoglie con tanto entusiasmo in questa nuova partenza, sempre speciale dopo lo special summer, come dicevi tu Willy. Però ovviamente volevamo mantenere anche le nostre doppie presenze così alte. 4 metri di presenza. Esatto, infatti Twin Towers. Vogliamo mantenere sempre la simpatia, l'intrattenimento e la leggerezza, mantenendo grande la qualità della musica, come tu ben sai, nelle tue scelte, nelle mie accompagnamenti musicali. E quindi in qualche modo, perché no, vogliamo fare aggregazione. Quindi non potevamo scegliere un modo migliore per iniziare se non con il funk. Assolutamente, oggi tanta musica, una playlist fatta di sensazioni forti, funky sensation. Queste che abbiamo appena ascoltato, e direi che è un buon inizio. Forti come l'eccitazione, il divertimento, l'odore intenso, funky vuol dire anche questo, sexy, attraente, autentico, originale, libero di inibizioni, insomma benvenuti oggi tanto funky alla forma dell'acqua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Mille emozioni, mille modi di ballare, tornando in diretta accompagnati da Wilson Pickett, il grandissimo The Land of 1000 Dances, la terra che tiene un milione di balli e tanti altri in più. Io ho esagerato, non è un milione ma è mille, ma l'entusiasmo è tanto. E quindi, a proposito di numeri, SMS? Ah, mandateci tanti SMS al 333-180-9494, oppure finalmente la nostra pagina nuova è attiva. Vedevo l'ora di dirlo, vai! Oh, il nostro Special Twice di Radio Città Fujiko, quindi trovate, cercate su Facebook oppure tramite il sito www.radiocittafujiko.it. E Mustang Sally. Tanto per rimanere in tema, perché questo stacchettino che sembra proprio cadere a fagiolo? Perché c'è la contaminazione, grazie a Wilson Pickett, del funky con il blues. Perché? Perché il blues è malinconia, avere i diavoli blu è qualcosina di un po' introspettivo, malinconico, un filo triste. Blues, tristezza, malinconia. Arriva il funky, improvvisamente gli porta qualcosa di un pochettino più spensierato. La scrittura sarà leggermente più energica, sarà diversa, e Wilson Pickett, nonostante venga definito e, diciamo così, identificato con il soul o con il blues, diciamo che quando voleva, la cosa in più che ha portato è tanta energia e quindi tanto funky. Direi che questo è un inizio azzeccato. Un ottimo inizio. E vogliamo ricordare anche il suo contributo italiano, perché nel suo piccolo, non si sa per quale motivo, è voluto intraprendere un pezzettino di carriera in Italia. Però insomma, un piccolo festival di Sanremo l'ha fatto con un Battisti, un esordio, non si nega nessuno, insomma, anche perché venne citato addirittura da Nino Ferrer nel brano Vorrei la pelle nera come esempio da intraprendere. E quindi, anche nei Blues Brothers. Noi ringraziamo Wilson Pickett, dicono a un certo punto. Eh sì, gli dobbiamo tanto, assolutamente. Storia tristissima dell'infanzia. Sì, molto triste. Aveva una madre un po' hitleriana, perché appunto lo picchiava, diceva, con qualsiasi cosa. Poteva essere una padella come un arnese da cucina. Un mestolo, è stato preso a mestolate, poverino. Esatto, e per una settimana pianse scappando in un bosco col suo cagnolino. E qui piango io. Questa che tristezza. Sì. E forse per quello ho detto basta, bisogna far qualcosa, non andiamo in fondo alla malinconia del blues, anzi reagiamo, e quale modo migliore se non con il funk proprio. E adesso proseguiamo con la nostra playlist con un brano dal vivo da Wilson Pickett. Va da sé che si va a un altro gigante, nasce a Dawson, in questo caso rifà un pezzo del Godfather of Soul, e adesso ascoltiamo Otis Redding, Papa's Got a Brand New Bag. Got it. Torniamo in diretta alle 10.45 di questo venerdì 4 ottobre con lo Special Twice insieme a William Piana e Elisa Iacobucci, le vostre Twin Tower, per fare una carrellata della sensazione funky. Ovviamente siamo all'inizio e cominciamo dalle origini. La contaminazione tra soul e funky, in questo caso grazie a Otis Redding, è perfetta. Otis Redding molto più sfortunato di Wilson Pickett. A Wilson Pickett delle mestolate sulla testa, a Otis Redding giù con un aeroplano. Eh sì, diciamo che i viaggi all'epoca portavano molto male. Infatti, guarda, stavo pensando a tutte le puntate che abbiamo fatto e potremmo addirittura crearne una in cui facciamo la storia dei più sfortunati della musica. Lo faremo, perché ce n'è parecchia. C'è una gara. Se mai capiterà un venerdì 17, lo facciamo su quello. Dai, va bene. Proviamo. Perché sì, ma anche oggi poi vedremo che appunto ogni personaggio avrà una particolarità nella propria vita. Mm-mm. Però diciamo che Otis almeno iniziato da bambino come già musicista prodigio, cioè addirittura quando cantava nel coro della chiesa battista di Vinville divenne una celebrità perché vinse il concorso per giovani talenti per 15 sabato di seguito. E quindi insomma, non è un caso. Forse è bravo. Peccato appunto questa maledetta fine su questo aereo, ancora non si sanno bene le cause di questo incidente, però insomma è riuscito in qualche modo a prendere il funk e farne una grande cosa. Ma pensa al musicista dei Booker T invece, che si è salvato vicino a lui slacciandosi la cintura di sicurezza all'ultimo secondo dicendo oh cavolo, forse non ha detto oh cavolo, mannaggia, non ci voleva proprio, mi sa che mi va a ritardo la coincidenza, il rientro arriva tardi purtroppo, ci si scherza, però pensa alla sfortuna anche di non godersi appieno, anzi per niente, il successo di Sitting on the Dock of the Bay, che uscirà 3 giorni dopo ed è stato uno dei brani soul secondo me più belli di tutti i tempi. 333-1809-494 per i vostri sms, ricordando che il funky, o almeno la sensazione, la parola, già è presente dagli anni 50. Eh sì, però ovviamente le contaminazioni, come dicevamo, è una miscela un po' di soul, un po' di blues, un po' di jazz, quindi cambia il riff, abbiamo ovviamente una chitarra elettrica, abbiamo un basso che dà la base e ricordiamo anche uno strumento speciale che è il Hammond, ha dato veramente un'influenza alla musicalità con questi pirolini dove tu dovevi stare lì che sembrava più che altro un videogame perché è veramente appunto fatto da un orologiaio. Guarda che un po' in mezzo alle tutti i marchingegni, tutte le rotelle, in qualche modo dava la difficoltà in più anche a questo però suono. Ha regalato del suono bellissimo. E per voi cos'è veramente funky? 333-1809-494, oppure più avanti possiamo anche trattare di un argomento che è molto legato al funky, cioè il ballare. Qual è stata la vostra prima discoteca? Qual è stata la prima vostra balera? Se siete anche più anziani di me, e già posso dire di vantare un'esperienza pluridecennale, o il bathroom se siete stranieri. Tutte le risposte e tutte le domande sono ben accette qua al 333-1809-494 oppure con la nostra pagina Facebook. Eh sì, infatti intanto salutiamo Eleonora che ci ha appoggiato innanzitutto per questa nuova puntata, questa grande partenza. Almeno avete una doppia visione, cioè un funky da chi l'ha vissuto in prima persona e da chi come me che non si sa come, che mi dico ma come mai questa tua passione, questo vizio, sei un po' strana. Questo vizio. E quindi anche a chi più giovane è riuscito comunque ad avere una sua visione di questa musicalità. Perché non ascolti la techno come tutti gli altri? Non so, sono fatta male. E allora andiamo avanti, perché a proposito di vere origini non può mancare The Godfather of Soul. Poche chiacchiere, tanta musica. Sex Machine, a tra poco. Well, listen, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. You got to have the feeling. Sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Così all'improvviso questo Sex Machine è stato incontenibile. Incontenibile davvero, come appunto la musica funk che ti prende, ti trascina. Infatti se sentite appunto una cosa strana che vi sta prendendo, che non riuscite a non stare fermi, è proprio questo. Quello è. E James Brown, fra l'altro, è stato addirittura definito il padre fondatore di questo genere. Dopo di lui si può parlare di Parliament, Funkadelic, Bootsy Collins, George Clinton. Quello proprio è il funky come viene sdoganato vero e proprio. Io preferisco, anzi noi preferiamo fare una colonna sonora, una playlist che parli di funky, però di contaminazione, di sensazione e a 360 gradi, non essere troppo integralisti. No, anche perché comunque bisogna un po' lasciarsi andare, divertirsi, e quindi va bene farlo con gusto, farlo con stile, come ci piace a noi. Esatto. Senza esagerare troppo. Sì, perché sennò poi troppo funky uno. Sì, poi insomma anche troppo odore. Troppo odore, dopo qui, già che è piccolo, non so, non ci stiamo più qua dentro. E noi siamo grandi. E noi siamo grandi, quindi occupiamo anche più spazio, quindi c'è qualcosa che non va. Ma non potevamo non inserire James Brown, appunto il padrino, the good father of soul, ma ha avuto veramente tantissimi soprannomi all'interno della scena musicale, perché è stato proprio il pioniere della musica funk. E negli anni 60 cominciò a enfatizzare un po' questo accento musicale nella battuta, e diciamo che era una caratteristica della musica afroamericana. Infatti il funky è anche molto duro, molto crudo, esatto, crudo è la parola raw giusta. Funk si chiama infatti quello di James Brown, ha vinto 40 dischi d'oro, mica iniziando mica di platico, iniziando come lustrascarpe. E infatti lui era molto vicino anche ai diritti civili, e ed era convinto che solo in America potevi iniziare dall'usascarpe e arrivare ai più grandi piani. Su questo non so se le Black Panther potevano condividere questa idea, dove negli Stati Uniti, la terra della libertà, la terra del successo, ognuno poteva arrivare dove voleva, basta la buona volontà. Beh, non credo che le Black Panther siano di questa opinione, in quanto è più importante cambiare il sistema piuttosto che cambiare l'individuo, secondo me. Diciamo che è un coinvolgimento sicuramente in America, essendo un grande paese, hai la possibilità un po' più aperta, però insomma sì, non diciamo è che hanno le belle pecche anche loro. La voglia parlarne, non basterebbero le nostre due e ore. Faremo uno special twice dedicato ai difetti degli Stati Uniti d'America. Beh, faremo una puntata doppia. Intanto passiamo al funk alla musica, che almeno l'America su questo ci ha regalato tanto. Tantissimo. Questo possiamo dirlo. L'America afroamericana. Però vedremo che anche la parte bianca si è fatta coinvolgere. Esiste, è stata coinvolta e ne parleremo più tardi. 10:55, il tempo è volato, siamo già vicini al primo stacchettino pubblicitario. SMS dove andate a ballare o cos'è veramente funky per voi, 333-180-9494. James Brown, che dire, personaggio controverso, riesce a parlare di diritti civili ma a cantare anche Living in America con fianco a Rocky, che è un'icona dell'establishment americano, per cui molto controverso come personaggio, viene arrestato più volte. Sì, anche lui una vita di quelle da inserire in un venerdì 13. Però lui se la cercava un po' di più, non era un aereo, no, è una casualità. No, non è molta casualità. Però di fianco a lui ci sono sempre stati grandi musicisti. Grandi musicisti, come per esempio Maceo Parker, il suo grande musicista di spalla. Il leader dei J.B. Horns, che erano Pee Wee Ellis e anche Fred Wesley, trombonista, lo stesso Idris Muhammad, insomma si contornava di grandissimi musicisti, non solo uomini chiaramente, ma anche donne, ma lo scopriremo andando più avanti. Voi restate in ascolto dei 103.1 che William e Elisa vi mandano, dei J.B. Horns con Pass the Peace di Maceo Parker, pubblicità e poi rientriamo perché ve ne racconteremo delle belle. A fra poco! Why do you like soul food? Because it makes me happy. Pass the peas like you used to say. Pass the peas like you used to say. Pass the peas like you used to say. Pass the peas like you used to say. Add them then. up to be somebody that just loves to learn. And another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good to mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Oh, yeah, family affair. Torniamo in diretta accompagnati dalla voce di Sly and the Family Stone per questo speciale Sensazioni Funky, Funky Sensation, una sorta di prima puntata. Eh sì, una prima puntata che esordisce così. Che prima non è, esatto, anche perché veniamo da qualcosa di speciale di estivo, il nostro Special Summer che ha accompagnato tutto luglio con il caldo e con le aspettative estive, e adesso purtroppo l'estate è finita, rientra col freddo, e meno male che c'è il funk che ci riscalda un po'. Esattamente, brava Elisa. 333 1809 494, oppure la nostra pagina Special Twice. Tu hai fatto apposta a scegliere questo nome, perché così io prima o poi dirò Special Twice. Special Twice di Bologna. Prima o poi io lo so, ma anche Funky Sensation. Funky Sensation è un bel andare. Eh sì, beh, intanto ringraziamo anche Zagor lo Spirito, che è il nostro miglior accompagnatore. È un co-conduttore, si può dire. Noi ci appoggia. Sì, lo ringraziamo tantissimo. DJ Sparo, fra l'altro legatissimo alle sonorità soul funk. Ciao Sparo e grazie per la partecipazione. 11:08 minuti, questo rientro è stato un po' più delicato, ma soprattutto è stato un po' più di contaminazione. Di contaminazione, perché è un gruppo di Sly and Family Stone che davvero è stato uno di quei gruppi che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della musica soul funk e anche psichedelica. Eh sì. Aveva delle componenti multietniche interne. C'erano bianchi, c'erano neri, cantavano tutti insieme. Un arcobaleno. E diciamo che il contributo iniziale di Sly Stone, appunto, che aveva lavorato con artisti appunto sia bianchi che neri, e durante i primi anni aveva anche fatto diffondere alcuni dei loro lavori nella radio K Soul, che era molto ascoltata dagli afroamericani. E proprio anche per questo motivo che c'è un miscuglio di influenze, di culture. Infatti c'è un po' di James Brown, un po' della Motown, cioè pop music, qualcosa della Stax Record, e anche un po' di rock psichedelico. Insomma, mette contenti quelli che ascoltano il raw funk o solo un pochettino più southern, e sia quelli un po' più urbani come me che piace la Motown o il Philadelphia. E quindi Sly and the Family Stone per me meritano un posto al sole nelle sensazioni funky, assolutamente. Noi ci spostiamo e andiamo a vedere il funky nel mondo. Nel mondo, sì, perché ovviamente non è che è qualcosa di limitato, le contaminazioni sono tante, e anche sull'africano. Eh beh, sì, diciamo che quasi, anzi, la contaminazione è tutto il resto. Esatto, è grazie alla contaminazione che è nato tutto. Infatti probabilmente l'origine è questa. Anche qui Afrofunk, Afrobeat, si può parlare di Nigeria oppure di Corno d'Africa, le origini sono tantissime, ma che dire, diciamo che il grande Fela Kuti è stato il più importante, The President, The Black President Fela Nicolapo Kuti, cambia il suo nome, addirittura si fa chiamare colui che non viene, colui che può controllare la propria morte. Il significato non è esoterico ma è molto pratico, in sostanza ogni uomo è padrone del proprio destino, un messaggio molto forte. Il suo studio viene distrutto più volte, lui viene arrestato dalla polizia nigeriana, lui invitava tutte le compagne e i compagni africani a riunirsi, vedi? La Bologna torna sempre. Vedi, possiamo andare anche in Nigeria, ma quella scappa sempre fuori. Poteva riunirsi, insomma, tornando al discorso di prima, che io e Lisa stiamo bellamente celliando, a parte gli scherzi, appunto, quello che doveva essere un nuovo stato nel continente africano all'insegna della libertà e all'insegna della fratellanza. Non va bene ai poteri forti e Fela Kuti e il suo studio vengono distrutti, lui viene arrestato. Quello che lascia però è un grandissimo tracciato per tutti gli altri musicisti che seguiranno. Fela Kuti più che altro importante per il messaggio politico, la scrittura molto reiterata, molto pesante, diciamo non esattamente radiofonica, dei brani da 19, 20, 25 minuti, ricordiamo che sono delle suite più che dei veri e propri brani, però rimanendo a quei ritmi, perché no, ci spostiamo in Camerun con Sol Makossa, ci ascoltiamo Miano di Bangu e magari possiamo anche ballare. Buon ascolto. Reinterpretata, rifatta, campionata da tantissimi DJ, coverizzata, è un po' il brano che mette insieme il pop e l'afrobeat o afrofunk per eccellenza, camerunense, Manu Dibango, e perché no, ci ha fatto divertire tanto anche con altri brani tipo Salt Popcorn. E ti devo dire una cosa, cara Elisa, c'è stato solamente un personaggio che ha scelto una cover band di Manu Dibango per il suo matrimonio. Io. Addirittura. Per la gioia dei miei ospiti, hai capito? Vabbè, scusami, il matrimonio è tuo, scegli infatti, tu la festa. Io penso, ho scelto una cover band di Manu Dibango, che tra l'altro sono di Imola, sono stati eccezionali, poi una band, sono in due, lui è il sax, lei è l'organo Hammond, sono una coppia. Però... aspetta, ti devo raccontare questa perché merita, secondo me. Io telefono perché voglio prendere accordi, me li consigliano e infatti rimango molto soddisfatto. Contratto, chiamo, mi risponde lui. Dico, ah, buongiorno, mi devo sposare tra un mese, quindi ho pensato a voi. Sì, sì, ma noi le facciamo queste cose. Sì, sì, sì, va benissimo. Ma lei quanto, però, per un servizio, lei quanto prende? Aspetti un attimo, Beba, quanto prendi per un servizio? cioè, detto così. No, lascia poi, un po' intendere. A parte quello, però, lei intendevo, gli stavo dando del lei, quanto prendete? No, lui ha capito che io volevo solo lei. Hai capito? Ancora peggio. Anche questo è funky. Anche questo è funky. Molto funky. Vabbè, insomma, hai avuto un bel sound anche per il tuo festeggiamento. Sì, sì, sono stato contentissimo, fra l'altro. Quindi... poi, tra l'altro, Manu Dibango è stato anche il direttore del primo giornale di musica africana, quindi era proprio un iniziatore musicale dell'epoca, perché appunto è degli anni 50 e ha fatto un po' la storia dell'Afrobeat. Senti qua. E al taglio della torta! Queste note, questo... hai capito? C'era questo. Bacio. Beh, ci sta, è piuttosto che il tuca tuca o il gioca giù. Beh, sì, direi di sì, assolutamente. Solita Raffaella Carrà si poteva sostituire tranquillamente. Poi ha lo stacco che cambia improvvisamente il groove, che è bellissimo. Aspetta che lo sto cercando, ma lui ha i tuoi tempi, lui ha i suoi tempi, noi i nostri. Speriamo che arrivi. Dumelle. Sono ghignai. Ed eccolo qua, Manu Dibango, camerunese, direttore del primo giornale di Afrobeat e Afrofunk africano. Esatto, sì, direttore sapevo. Del giornale di musica africana, il primo in assoluto, e lui era lì. Beh, ha lavorato appunto, come dicevi, anche con Fela Kuti, con Style Bamba, Fanny All Star, insomma in tantissimi, e ha dato il suo contributo grazie al suo sassofono, che riesce, come abbiamo sentito, a dare delle vibrazioni uniche davvero. E improvvisamente si sterza. E si sterza, sì, infatti... come abbiamo detto, le vite di questi personaggi sono uniche e disperate. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, e vabbè. Però, diciamo che noi godiamo di quello che ha lasciato, indubbiamente. Noi andiamo avanti, siete sintonizzati su Radio Città Fujiko 103.1, lo Special Twice, prima puntata, ma non vera e proprio prima di palinsesto definitivo, alle 11:17 minuti, noi cambiamo anche sesso. Eh sì, finalmente arrivano delle, non noi in prima persona, ma all'interno della nostra playlist, arrivano le fantastiche donnine, le donnine tutte di James Brown, tutte di James Brown. Lui le ha trovate, il Pippo Baudo della canzone funk, James Brown, lui le trovava, le scovava, le teneva per sé, le dava ai suoi musicisti, insomma, meno male che è riuscito a scoprire queste piccole pietre di bellezza. Sì, sono riconosciute proprio come delle vere e proprie female preacher, come Lynn Collins, che era chiamata così, la predicatrice la predicatrice donna di questo genere assolutamente importante, che sarà ancora più importante in ambito proprio di femminilità, perché sì, poi dobbiamo anche ricordare, anche se non è proprio radiofonico, ma le scenografie, gli stili, i colori, le capigliature, cioè era proprio una rivoluzione totale, questi caschi di capelli, queste zampe, queste tutine super colorate che davano davvero la grinta giusta, questa grinta qui di Lynn Collins. Rock me again and again and again and again. And six again. Time. Rock me again and again and again and again and again. Rock me again and again and again and again. Esempio per mixare, per entrare e passare un altro brano, la battuta si scarnifica improvvisamente e rimane solo basso e batteria. Quale migliore occasione per rientrare? Rock me again and again and again and again. Six time. E 21 minuti, il tempo sta correndo veramente in fretta. 333-1809494, questo per dire come si sta bene quando si ascolta funky. Come si sta bene, dove avete ballato, perché qual è la vostra sensazione di funky e quali sono state le vostre prime esperienze attraverso il funky? Sì, ditelo, diciamolo a William e Elisa, le vostre prime esperienze. Quali sono state? Voi quanto prendete per un servizio? Ma papà's got a brand new bag, vedo. Beh, sì, sì, cioè... anche vicino a te. Ah, sì, sì, ci sono. Ecco, col giornale. Col giornale. Papa's got a brand new bag. Ma come? Questa qui non è proprio new. Beh, però no, insomma, l'abbiamo riciclata bene. Sì, l'abbiamo dovete riciclata sapere bene. Che Elisa ha una bellissima borsa che apparteneva al papà, che lei ha rubato, sì, ha sottratto, che è veramente bella. Ritrae in prima pagina una quotidiano, la prima pagina, scusate la ripetizione, del Messaggero dell'88. Dell'89, dopo la caduta del muro di Berlino. Esatto. Pensa un po'. E io me la porto dietro, così intanto mi ricordo anche che quando sono nata, esatto, era una nuova era, però insomma, passano gli anni, ma mi sa che problemi si ripetono lo stesso. O peggiorano addirittura. Comunque cerchiamo di migliorare invece noi andando avanti con tante belle voci femminili come Vicky Anderson. Cambia il nome, ma diciamo che la sostanza. La sostanza sì, anche perché anche lei legata a James Brown, sposa addirittura il suo braccio destro, appunto Bobby Bird. Bobby Bird, grandissimo. Grandissimo, e dice addirittura James Brown che è proprio Vicky Anderson la migliore che lui abbia mai avuto. Peccato come che voce. L'ha sposato un altro. Mannaggia. Beh, si sa che insomma Brown era una sex machine, evidentemente c'erano tutte queste donne, c'era un perché. Sì, Vicky Anderson. Da Vicky Anderson andiamo ad ascoltare questo brano che ha un titolo molto particolare: If You Don't Give Me What I Want, se tu non mi dai quello che voglio. Play. ritornati sulle note delle nostre donnine funk qui sui 103.1 con la vostra coppia di lunghi all'interno della prima ma non prima puntata di questo special Twice, tutto speciale, tutto movimentato grazie alla sensazione del nostro bello funky. Sai che adesso la rallentiamo, cara Elisa, rallentiamo con grande gusto secondo me. Vabbè, quello c'è sempre, non bisogna mancare. Con Marva Whitney fra l'altro, che anche lei è grandissima cantante, a proposito di voci femminili, Soul Brother Record, l'etichetta che ristampa grandissimi successi in ambito di musica afroamericana, in questo caso in duetto con lo stesso James Brown. Sì, lei tanto dolce, anche se in realtà veniva definita la più cruda come, come diciamo approccio al funky. Anche si vede da com'è vestita in questa copertina, praticamente in sottoveste. Sì, più quella, che cruda, nuda e cruda. Bellissimo, ma guardate come siamo fantasiosi e funky quest'oggi 4 ottobre, già weekend fra l'altro. Già weekend è arrivato finalmente. Ma è chiuso, mannaggia. Oggi è festa, è 4 ottobre, così, va bene, noi abbiamo il nostro modo di festeggiare anche queste festività. Con tanta musica, bellissima, a cura di William Piana e Elisa Iacobucci, o meglio dire Elisa Iacobucci e William Piana, così va meglio visto che stiamo facendo uno speciale sulle ragazze del funk. Il brano in questione è un grande classico, Sunny. E Sunny è in duetto e noi ce l'ascoltiamo tutto, godetevelo. Andiamo in pubblicità, restate con noi. E mi raccomando, se ci volete dire dov'è che andavate a ballare quando eravate dei pischelletti, a noi ci fa tanto piacere. E anche quello che provate quando ascoltate del funky. 333-180-9494. Ciao a tutti. Sunny, yesterday my life was filled with the rain. Oh, baby, Sunny, you smiled at me and really eased the pain. It's magic. Dark days are done and bright days are here. My sunny one shine so sincere. Sunny, I'm so true, one so true. I love you. Get it. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, tornando in diretta alle 11.36 con lo Special Twice, venerdì 4 ottobre con Elisa Iacobucci e William Piana, ci accorgiamo che le nostre sensazioni diventano improvvisamente contorte, libere, ma nello stesso tempo non facilissime. Un po' un labirinto nuovo, e sì, la nuova contaminazione jazz, il jazz funk che avete appena sentito era di Miles Davis, che ha dato il suo contributo ovviamente, la voglia se ne ha dato, che gli ha dato, e ha dato queste nuove sonorità che sono un po' più psichedeliche, un po', sì, più strane, imprevedibili, come nel appunto funk entra improvvisamente qualcosa che flirta anche col free jazz, quindi ci sarà un insieme di gusti, ci sarà un insieme di nuove sensazioni in questo caso, che sono tutt'altro che immediate. Il disco è un capolavoro, è ovvio che l'orecchio deve essere un pochettino allenato, e non è esattamente d'aggregazione, anzi no, questo, no, no, questo è, diciamo, d'ascolto, che è da un ascolto per far capire come anche il jazz ha influito nella musica del funk. Assolutamente. On the Corner, 1972, Miles Davis, il disco per così dire ha una copertina che secondo me è una delle più belle di tutti i tempi. Sì, è un po' a fumetto. È a fumetto, sì, sì, molto di questo bella, disegnatore molto particolare che è On the Corner, e qui vuole riprendere il particolare di un angolo proprio di un tipico quartiere afroamericano. Benny Maupin al clarinet, al bass clarinet, scusate, lo stesso Herbie Hancock, che affermerà che ogni volta che vedeva Miles Davis per lui è un grande terrore, perché ricordiamo che Miles Davis insomma non era sicuramente quel che viene definito un bel uccello, un bonaccione, esatto, ecco, aveva, riusciva ad esprimere tramite i suoi occhi una profondità e qualcosa di veramente tagliante, però insomma Herbie Hancock ha avuto l'onore di essere coinvolto nel suo album Steven Step to Heaven, e inserendosi nella Blue Note, ovviamente, come abbiamo già parlato nel nostro Special Summer della Blue Note, di questo grandissimo artista. Herbie Hancock, anche lui camaleonte sì. Guarda caso, camaleonte, esplora tanti generi musicali, ricordando però che c'è la, diciamo così, voce che Miles Davis abbia fatto questo cambio virando verso il funk o verso le contaminazioni più attuali degli anni 70 per motivi di soldi. Probabile, però insomma è una buona unione la certamente necessità economica con la capacità artistica. Non certamente becere. Tra l'altro nel disco di Miles Davis abbiamo anche Jack DeJohnette, che lo troviamo su una copertina profumatissima. A parte gli scherzi, su questa copertina del Jazz Bologna Festival, sì, vi consiglio appunto se vi interessa, quest'anno è davvero molto speciale, molto particolare. Noi ci saremo dal 26 ottobre al 27 novembre. E la copertina dedicata al grandissimo batterista Jack DeJohnette. Sotto le nostre voci è già partito un camaleonte che sta scalpitando, sta cambiando. Elisa non sniffa. No, perché dovete sapere che il tagliandino del Bologna Jazz Festival ha un odore di un involtino cinese, e diciamo che più lontano mi sta meglio. Sì, perché 11.39 te a quest'ora, esatto, e poi oggi essendo festa ho trovato tutto chiuso, quindi ho un po' fame, quindi prima di mangiare i microfoni mangeremo il programma del Bologna Jazz Festival. Questo è Herbie Hancock e il suo disco con gli Headhunters, ma non è proprio così, il disco si intitola Headhunters, dopo nasceranno gli Headhunters, una storia bella, una storia interessante. Beh, restate sui 103.1 che William e Elisa ve la raccontano. E questo sviso, come lo chiamano i giovani, Herbie Hancock, che decide di lasciare da parte per un attimo il jazz modale e scrivere qualcosa di jazz funk. E questo disco, Head Hunters, ne è la prova. 1975. E che dire, si contorna di musicisti che saranno veramente delle proprie realtà incredibili, da Benny Maupin a Paul Jackson, Herbie Mason e il grandissimo percussionista Bill Summers. È grande musica afroamericana. Sono particolarmente esaltato da questo groove proprio perché io c'ero. E tu c'eri, maledetto! Io c'ero, oh, finalmente. Altro che qui tutti questi ritorni anni 80 e che cosa. Adesso mi scrive una serie di sms, ecco, sei il solito che ti piace solo la tua musica. Vabbè, intanto i messaggi arrivano. Vai. Allora. Sono emozionato, vai. Numero uno. Numero uno. Allora, bravi, bel programma. Io nel 79 andavo a Chicago, a Baricella. Al Chicago. No, non a Chicago. Beh, oddio, andare fino a Chicago. Allora, o sei americano, o se no c'è. Chicago, famosa frazione di Baricella. Di Baricella, esatto. Ciao Robby, grazie Robby. Grazie Robby. Piacere. E anch'io. Poi c'è un messaggio per te, Willy. Oddio. Scusa, ho avuto un momento di sindrome di Stendhal. Come si chiama l'afro-funkadelico che hai quasi suonato al tuo matrimonio? Grandissimi Enzo. Sol Macossa di Manu Dibango è l'originale. Per quanto riguarda i due musicisti, tengo il tuo numero di telefono se ti interessano quelli e ti ci metto in contatto. Anche perché sono stati molto disponibili, un po' magari sì. Un po' alla Carlona, però. Sono stati professionali, immagino, almeno. Sì, si hanno fatto divertire il pubblico e sposi compresi, quindi missione compiuta, tutto è andato bene, a quanto pare ha portato bene anche al matrimonio stesso, e quindi sai, di questi tempi bisogna aggiungere anche questo, per cui diciamo che l'afrofunk è stato qualcosa di estremamente utile. Voi continuate a scrivere e a seguirci, ad ascoltarci, 333-180-9494, oppure Elisa, che ha fatto un lavoro straordinario, non ha dormito delle notti per fare una sì, guarda, in realtà perché si vede che soffre a mettere insieme tutti sti colori, proprio non li sopporta. Sì, infatti guarda, il creare la nostra nuova pagina è stata davvero un'impresa pesante, anzi ho fatto anche troppo, perché una volta che poi prendo la mano non mi fermo più da mettermi proprio le catene alle mani, quindi e meno male. Basta cercare Special Toy su Facebook e avrete appunto tutte le locandine, le immagini insieme ai nostri loghi e anche le vecchie puntate, perché se ve le siete perse sono tutte lì a disposizione. È un buon motivo per riascoltarci. Noi proseguiamo, vi dicevo di una leggenda che non è leggenda ma è verità, questo gruppo fantastico, gli Head Hunters. Che gruppo non era, erano semplicemente coloro che hanno partecipato al disco di Herbie Hancock come musicisti. Il disco va talmente bene, ma soprattutto è così talmente innovativo che dicono, beh, da questo titolo di disco nascerà un gruppo, e infatti sono nati gli Head Hunters. Qualche disco hanno composto, tanti altri non sono riusciti a comporli per un semplice motivo, perché Herbie Hancock ha abbandonato la formazione, si dice in maniera un po' litigiosa. Purtroppo però quello che è rimasto sicuramente è un grandissimo lavoro. E adesso, dopo essere stati in Africa, dove vogliamo, cara Elisa? Vogliamo verso il Brasile. Noi questi li conosciamo già, perché durante la puntata dedicata al Latin li abbiamo conosciuti, li abbiamo ascoltati. Loro sono gli Esimut. Chi è un po' più vecchio si ricorderà di questa Jazz Carnival come sigla di un noto contenitore su Rai 2 negli anni 70-80, e io sono ben lieto, anzi noi, scusate, siamo ben lieti di presentare questo Jazz Carnival a cura degli Esimut. Thank you. Di Esimus, José Roberto Bertrami, Paulinho da Costa e un altro musicista di cui mi sfugge il nome, ma che Elisa sarà informatissima a darvi. Beh, sì, diciamo che questo è un gruppo. No, in effetti i nomi sono quanto mai sfuggenti, ma la musica rimane. Beh, diciamo che si sono autodefiniti una formazione di samba doido, cioè folle samba. Assolutamente sì. E sentiamo che si sta. Che ritmo. Beh. A parte che è stata rifatta in miliardi di modi, in miliardi di salse, appunto. E soprattutto ricordo che era la famosa sigla del contenitore del format Mixer che andava in onda su Rai 2, che io ero un bimbetto, per cui è che Elisa è molto più fortunata di me, non si ricorda nemmeno, beata no. Lei. Diciamo era questo format al giovedì su Rai 2 che parlava di tutto e di più, non so se voi ve lo ricordate da casa e potete dircelo! Al 331809494, intanto andiamo avanti anche sulla pagina, continuano a cliccare mi piace alle foto, che a noi bellezza. Ci piace tanto, ringraziamo anche Selene Recca. Sì, cantante degli Un Trio di Pieve di Cento. Grazie Selene, un bacione e speriamo a presto. Perché no averla ospite qua? Ah sì, potrebbe essere una bella giornata di canterini. Sì, lei tra l'altro è una bravissima cantante, amante del soul e del funky, quindi direi che va perfettamente a braccetto con i nostri gusti. Poi folle samba, un po' anche noi siamo folli. Beh, tu vuoi dichiarare le tue follie di vestiti e di accessori che potevi usare magari in una serata a caso funky? Sì, lo puoi dire. Ma sì, la canotta traforata rossa. Ci sta sempre, sì, anche colorata. Diciamo, sì, un po' colorata, ma era questo rosso vivo che già che sono un omone, anche se ero un ometto allora, mi si vedeva da 10 km di distanza perché c'era questo palo rosso. Cioè, sembravi una rete da pesca che ballava. Che ballava, esatto. Poi c'era chi cadeva dai cubi invece di ballare. Ci sono state tante altre emozioni che abbiamo vissuto tra i 15 e i 20 anni. Purtroppo l'unica sfortuna di quelle emozioni è che difficilmente così fresche torneranno, però ricordarle insieme a quelli dello Special Twice sempre cosa buona e giusta. Eh sì, e meno male che anche io mi sono salvata in qualche serata accompagnati dalla Funk Rimini, perché io essendo di Rimini ho avuto il piacere. La Funk Rimini che mi ha salvato tante di quelle serate grazie alle loro musiche, alle loro serate. Meno male che ci sono, che continuano nel loro progetto musicale. Pensa che tristezza, Bolo Bazza, Bolo Feccia, Bolo Bene. No, tristezza Bolo Bazza no, perché è un form. Scusa, non volevo. Mamma mia, che gaffe che ho fatto questa volta, che tristezza. No, ma volevi dire una Bolo Feccia e Bolo Bene. Esistesse una Bolo Funk. Una Bolo Funk, almeno un po' di cose. Oltre a Bolo Bazza, che noi salutiamo e ci mancherebbe, anzi aspettiamo qui con noi ai 103.1 di Radio Città Fujiko. Ricordiamo che Bolo Bazza invece va in onda dalle 17 alle 18 sempre su questa emittente alla domenica. Così ci siamo salvati. Vabbè, sai, quando c'è il bolo davanti, ovviamente il bolo alimentare poi è un attimo confondersi, però insomma continuiamo con le nostre musiche, le nostre note sì. Perché adesso con piacere perché adesso strizziamo già più l'occhio al facile ascolto, alla disco, a qualcosa insomma più nelle nostre note a livello di venerdì, grazie a Dio è venerdì, qualcosa di felice, di allegro, e infatti loro si chiamano Pleasure e ascoltiamo Joyous. Andate via, perché torniamo dopo la pubblicità per l'ultima mezz'oretta insieme. Siamo quelli dello Special Twice, Lisa Jacobucci e William Piana, per un venerdì di festa, un venerdì di weekend, con uno speciale Funky Sensation. Together.

E questo è il sound che ci piace sui 103.1 in questo special Twice, con suoni, stili, visioni e due ore piene di musica, di gusto, grande gusto e divertimento. E aspettiamo. E gaff. Può capitare anche questo. Infatti, subito arrivano le rettifiche che ci dicono che Bolo Balza Live è dalle 16 alle 15.30. Potete consultare anche il sito bolobalzalive.ning.com. Un abbraccio a Luca Gazzotti all'ascolto, se è all'ascolto, ma a quanto pare c'è. Un saluto a Luca, e chiaramente non è assolutamente abbinabile agli altri Bolo. Beh, diciamo di no. Assolutamente, anzi, l'ascolto è assolutamente consigliato. Alle 12.05 minuti, Radio Città Fujiko 103.1, per questo weekend che è già iniziato con delle sensazioni forti, delle sensazioni funky e, grazie ai Mop Mop, delle sensazioni italiane. Eh sì, bolognesi anche, come abbiamo sentito. Insomma, quasi. Però insomma siamo ben contenti di vedere che anche in questi anni contemporanei c'è qualcuno che porta avanti questo sound e lo fa anche molto bene, come avete potuto sentire. Questo non era uno dei loro ultimi dischi, ovviamente hanno creato anche sonorità più simili all'afro, un po' più tribali, un po' più funkeggianti, con un po' più di sax. Sono riusciti a fare un buon miscuglio di contaminazioni e divertimento, e potrebbero essere da presentazione per la nostra prossima puntata, sai? Ah, addirittura cocktail exotica. Beh, il lounge ci accompagna. Ci stanno in pieno per venerdì prossimo, questo insieme di blues dell'uomo bianco, quello che ha portato il tempo libero, il divertimento, la voglia di incontrarsi, in questo caso però all'insegna dell'exotica cocktail music. Ci sarà venerdì prossimo all'interno dello Special Twice. Don't miss it, non perdetelo. No, assolutamente. E noi continuiamo con le sonorità bianche, per esempio gli Average White Band. Che suono, che stile. Allora ascoltiamoci Pick Up the Piece. 12-10 minuti, The Bright Weight Band, una banda mediamente bianca. Mediamente. Ma dentro che sangue c'è? un sangue nero. Debano. Assolutamente. Venerdì 4 ottobre lo speciale funky allo Special Twice insieme a Elisa Iacobucci e William Piana, a 20 minuti dal distacco e il passaggio all'informazione con Alessandro Canella per il GR. Ma noi andiamo avanti anche in questi 20 minuti, cerchiamo di mettere buona musica, anzi buonissima musica. Un brano scritto in 5 minuti, ma mamma mia, che non riesco a trovare le parole, guarda, veramente. Adesso intanto io lo metto sotto, facciamo due chiacchiere sopra questo brano, ad esempio sulla copertina degli Average White Band. Beh, lo sai che gli Average White Band hanno un'idea di estetica che veramente... A me piace tantissimo. Mamma mia, cioè la W del White diventa il fondoschiena di una bellissima ragazza. Potrebbe essere anche sciolti. La W di un William. Esatto, invece diventa un fondoschiena. Immagina William con una bella chioma che scende giù. Il mio fondoschiena è meglio tenerlo ben coperto in questo caso, visto la stagione. Beh sì, ormai non c'è più niente da fare. No, però, insomma, no. Ricordiamo che è questo gruppo musicale della Scozia, quindi non è che stiamo parlando di musicalità da Detroit, da Filadelfia. Invece sappiamo come si è espanso in tutto il mondo, è arrivato fino in Scozia. Si sono riusciti anche in Scozia, che di solito il sangue è un po' più freddo, a fare una musica così calda. Poi nasce lì vicino anche il Northern Soul, o almeno i fan del Northern Soul, per cui nel nord dell'Inghilterra la voglia di black music è altissima. Eh sì, che scalda quegli ambienti un po' più tenuti in grigio. In grigio. Wild Cherry adesso ci ascoltiamo. Wild Cherry, sì, con questa musica veramente scritta in 5 minuti. Ma con un fascino che dura per tutta la vita. Wild Cherry, play that funky music, state con noi. Till you die? Yeah. Rientriamo sui 103.1 con un altro messaggio ai nostri Allora, ci chiede la nostra amica Paola: ma a Bologna dove si può ballare questa meravigliosa musica? C'è un locale funky? Sì, grazie per l'informazione. Sì, sì. Il 26 ottobre al centro Andrea Costa. Esatto. E dirà: ma cosa c'entra? Il centro, cosa c'entra? No, cara Paola, innanzitutto un grazie di cuore per la tua partecipazione allo Special Twice. Grazie e resta con noi. Per quanto riguarda la buona musica funky, purtroppo ci sono delle serate sporadiche. Per esempio questo gruppo, la Funk Rimini, spesso viene a Bologna a fare delle serate tipo all'Arteria, che ci sono dei mercoledì o dei giovedì dedicati proprio alla musica funk. Però ovviamente un locale che faccia solo questo tipo di musica, ahimè, se no mi sarei già fiondata. È merce rara, purtroppo. Bisogna vedere, però ogni tanto qualche mese invernale viene dedicato nei locali questo tipo di musica, e quindi magari potremmo tenervi informati sulla nostra pagina Facebook. Assolutamente, non mancate di dare il mi piace al nostro Special Twice, che sta curando direttamente Elisa Iacobucci, per cui non si sbaglia. E ricordiamo a tale proposito, 26 ottobre, ma lo metteremo anche sulla nostra pagina, saremo presenti al centro commerciale Andrea Costa, in via Andrea Costa, dalle 16 alle 18, per tenervi compagnia durante i vostri acquisti e, perché no, ballare e magari partecipare anche dei divertenti giochi che vi fanno anche avere dei buoni sconto da spendere all'interno del centro, che non fanno mai male visti i tempi. Due soldi in più e chi balla meglio avrà il premio più grande. Esatto. Scatenati con tutto il mondo. Ma lo sai che il pezzo che abbiamo sentito dei Wild Cherry, cioè questo nome che è un po', ricorda un po' uno sciroppo, infatti è proprio per questo motivo è stato scelto questo nome. Proprio in copertina. In copertina hanno scelto qualcosa di più sensuale. Perché magari il tubetto o comunque la boccetta di un medicinale non fa molto. Non era il caso. E tra l'altro esistono due versioni di Play the Funky Music, una che presenta White Boy e una invece che dice Yeah Funky Music. Era stata censurata per le radio di Boston per limitare questa condizione, insomma, capisco, di limite. Mi rendo conto. E beh, direi che Wild Cherry, oltre ad averci fatto divertire con questa bellissima musica, sono stati anche molto importanti dal punto di vista dello stile, perché anche la scritta nella loro nell'estetica hanno dato un bel contributo. Sì, assolutamente, 12-17, ma che contributo hanno dato Kool & The Gang. Mamma mia, anche lì che serate. Meno male che mi sono rifatta a posteriori, meno male. E non solo con i posteriori della copertina di prima e neanche con i tuoi posteriori, per quanto gradevoli, che si muovono ballando e danzando nei locali più belli di tutta Rimini. Anche qui a Radio Città Fujiko stai presentando dell'ottima musica. Grazie al tuo contributo, Willy, non potevo fare altrimenti. A posteriori e anteriori a questo punto. Esatto. E di contorno, un face to face nei nostri studi 103.1, e andiamo avanti perché ci aspetta un sound ancora più caldo. All over the world e in tutto il mondo, Peace and Understanding con i Kool & The Gang. insomma sarà un anno così. Eh sì, un anno un po' caldo, visto che il freddo c'è, cerchiamo di scaldarlo un po' noi almeno. Sì, sarà un anno un po' così in queste prime 8 puntate, anche se questa è la prima di uno stacco, stiamo presentando le sonorità a cui noi siamo più legati. Non manca il funky, non mancherà il soul, non mancherà tutto ciò che può essere rhythm and blues, quello che sono ristampe, pezzi di una volta e brani più attuali, ci saranno colonne sonore particolari, ci saranno influenze, insomma tutto ciò che può essere legato a un intrattenimento. Però fatto con un certo gusto, o almeno ci proviamo. Almeno proviamoci a fare un po' di informazione leggera con un'ottima musica. Sì, la colonna sonora non deve mai mancare, soprattutto tanta tanta musica. 12:22 minuti, siamo molto molto vicini ai saluti, per cui noi rinnoviamo l'invito per sabato 26 ottobre al centro commerciale Andrea Costa, dove William Piana e Elisa Iacobucci accompagneranno, per così dire, un sabato pomeriggio in compagnia e all'insegna anche di tanti premi che si possono vincere seguendo la nostra playlist dedicata a un'uscita improvvisa per una bellissima serata. Esatto, magari noi siamo proprio l'opposto della solita uscita, perché sì, io magari in 5 minuti mi preparo e tu anche, in realtà poi le donne sarebbero quelle che ci mettono ore e ore a prepararsi e gli uomini ad aspettare, dicono ma sì, come mai? Dicono che sia così, ma la realtà poi si sa è sempre stravolta. Io ad esempio non riesco mai a terminare quella che è una playlist ideale, che può essere per una serata o per un viaggio. Allora usciamo, allora andiamo, no aspetta che prendo un altro CD, no aspetta che ne prendo un altro ancora. È una cosa infinita. È possibile che la prima cosa che fai quando sali in macchina è mettere il CD? Ah, oh. Poi dopo la cintura e tutto il resto, però. La prima cosa, quando sali in macchina può nevicare, piove, è mettere il CD. Sì. Ci vuole un buon sottofondo musicale per partire carica la giornata, soprattutto in quelle giornate in cui fa freddo, piove, non si sa mai come affrontare la giornata. Assolutamente. E noi siamo quelli dello Special Twice e cerchiamo di farvela affrontare bene la giornata. Coi Kool & The Gang, questo gruppo del New Jersey 1964, ma in realtà produttivi dal 1970. E primo disco intitolato Wild and Peaceful, selvaggio ma allo stesso tempo pieno di pace. Kool & The Gang, perché questo brano? Perché non so se li ricordate, loro sono esattamente un gruppo di stacco da quello che è un funky più raw, più crudo come quello di cui abbiamo parlato all'inizio, a qualcosa che strizza di più alla disco music e al facile ascolto. Chi non si ricorda Get Down On It oppure Fresh, i loro successi, ma anche nell'essere più commerciali, rimangono sempre legati a un grande e infinito gusto. Kool & The Gang non sono più in attività, ma hanno scritto tantissimo per farci divertire e stare insieme, sia per un gusto più carnale che per un gusto più delicato e, perché no, piacevolmente commerciale. Another life, ti piacerebbe un'altra vita? Ma per adesso sono contenta di questa, anche bene, perché sognare altre vite è facile, ma non apprezziamo mai quello che abbiamo, quindi partiamo prima da quello che c'è, poi si vedrà. E si vedrà. Arrivano i messaggi, ci danno informazioni, ci dice tutti i venerdì funky anni 70 Arlecchino. Santa Maria Codifiume, perché era tutto puntato, scusate, certo. E ciao Robby, grazie Robby per questa informazione. Sì, è un'informazione preziosissima. Santa Maria Codifiume e Arlecchino, mi raccomando, molto azzeccato questa buona proposta che ci arriva da Robby, che salutiamo e abbracciamo. Grazie, grazie mille. E poi ovviamente ogni nuova news cercheremo di tenervi informati per ogni evento. E la mettiamo sulla pagina Facebook. Esatto. Ci mettiamo tutto sulla nostra pagina Facebook. Mettiamo tutto, ma adesso dobbiamo mettere i saluti. Sì, purtroppo siamo in chiusura, però non abbandonateci, continuate a seguirci. Venerdì prossimo sempre con noi Special Twice con William Piana e Elisa Iacobucci per rendere il weekend migliore, sempre più caldo. Sì, con tanta cocktail and exotica music, quella che erroneamente è stata definita lounge, un termine che mi fa rabbrividire sinceramente, un po' modaiolo, un po' lungo, però sì, no, un po' così, scusate la parola, tanto si può dire a mezzogiorno 20 6 minuti, un po' fighetto. Un po' fighetto? Sì, sì. Invece preferiamo cocktail music, exotica, qualcosa che parte addirittura dal grandissimo Dean Martin fino ad arrivare ai giorni nostri con i Tiberi Corporation, Kruder Dorfmeister. Insomma, anche nell'exotica, quella che viene definita degli ultimi tempi, purtroppo beceramente, dei Buddha Bar, c'è stato invece anche un movimento che è stato interessante. Eh sì, e noi non possiamo che approfondirlo in questi venerdì per tenervi un'ottima compagnia. E adesso buon weekend con gli Earth, Wind & Fire, cioè proprio con gli Earth, Wind & Fire. Eh sì, insieme a noi. Un grande saluto da Elisa Iacobucci, William Piana. State all'ascolto di Radio Città Fujiko. Tra poco l'approfondimento a cura del nostro direttore Alessandro Canella. Che approfondimento del GR, l'informazione a cura di Alessandro Canella. Ciao a tutti, a venerdì prossimo. Grazie dell'ascolto. Ciao.